Giorgina, rispondi. Fujimoto, mamma mia, come sto. Ciao Claudio, vabbè. Ciao Gianfra. Che razza di mortorio, tra poco ci dobbiamo. Dobbiamo parlare con quelli in propagazione, ammesso che ci rispondano anche loro. Ehi, pazienza, io poco ci sto entrando. Non è che mi preoccupo se c'è nessuno o c'è qualcuno. Chi vuole parlare parla, chi non vuole parlare parla con muro, dice quello. Ma mi sa che di muri ce ne sono tanti con cui parlare. Stamattina ho sentito un falso, infatti, gli ho chiesto, ma Claudio tutto bene? Però sì, non sta entrando, se entra ogni tanto. Poi, che mal di schiena, non ti dico niente. Ehi, mal di schiena. Mal di schiena ce l'abbiamo tutti, oramai ci dobbiamo convivere, Gianfra. E infatti, stamane, per non sbagliare, ho detto, mi faccio un pochettino di sterrato, tutto crasti. E così almeno, se mi viene il mal di schiena, so il perché, capito? Il brutto è quando ti viene non lo sai, quindi per non sapere è meglio sapere. Eccoci, non c'è scritto la fermata, non è niente, che c'ho una radio in mezzo ai piedi. E io ho finito adesso di fare un po' di pulizie perché ho piazzato un altro piccolo impianto perché sto mandando parecchia illuminazione in batteria perché ho capito che ogni tanto qua causa temporali fa danno, mentre invece quelli collegati direttamente ai gruppi batteria non le fa niente. E così, vabbè, di là non c'è nessuno, su, ho sentito una chiamata, ma è subito sparita. Sì, accesa, ma non ho sentito nessuno, anche perché te l'ho impegnato e mi stavo pulendo il batterio, lo stavo rimettendo in funzione, si è acceso. Lo sento rumore dell'alternata sul cazzo di alimentatore a 110, ma senti l'alternata? Ma mi sembra di no. Se c'è sono condensatori, i soliti condensatori invecchiano e si gonfia. Prova un po' aumento il volume e non parlare però. E io lo sento, se la spengo non sento niente, però è accesa, capito? E da un anno e mezzo dentro l'armadio, acceso al primo colpo, funziona tutto, però voglio lasciarla in funzione ancora un po', lo senti? Sì, in effetti sì, però non è, è molto bassa, tant'è vero che sento anche le voci sul fondo. L'alternata c'è, però non è importante, ecco, se non me lo dicevi tu non ci facciamo neanche caso. Magari prova a invertire la fase dell'alimentazione, vedi un po' se da quello. Adesso lo faccio, no. Ma non facevo anche i carbonati quando lo lasciavo molto fermo, capito? Allora. E l'ho messa qua a farla andare un po', se ogni tanto, gappa, va bene. Ogni tanto la facciamo andare. Non trovo manco il suo microfono, porca miseria, ho dovuto mettere MVP5. Io ce l'avevo acceso però il volume è basso qua ed ero un po' lontanuccio quindi non ho sentito niente. ripeto, è molto basso, però si sentono molto, molto sottofondi. E vabbè, sottofondo c'è la TV accesa. E basta. Kappa, già va bene, già va bene. Sono 140, MC60. Poi c'è anche questa accesa. Non mi è mai piaciuta quella lì, sempre casino, sempre casino. Non parliamo delle liti poi, anche lì. C'è sempre casino, sì, però insomma, già migliorato un po' da. Non è quello il problema, gappa. Adesso la sento un po' di più durante le pause, prima era un po' di meno l'alternata. No, questa la sento, ma poi questa mattina invece è sempre rumorosa. Aspetta che abbasso la potenza. Allora invecchiamo mica, la conosciamo solo noi, purtroppo è così per tutto. Lo so, è così per tutto, sì. È scienziosa, ma se te lo danno, sicuramente il cuscinetto. Iniziando ad andare a farsi forte, ci vuole un pochino di grasso, allora non ci vuole l'olio. Domani la facciamo bene, allora non la giochiamo. E così, 18.09. E come si dice? E niente si muove. 18.09, niente si muove, hai ragione tu. È proprio così. Vabbè. Babbo, dai, già fra. Non esco da qua, intanto siamo alle due, no? Allora ci sentiamo dall'altra parte tra un po', vai. Che metto a posto qua, che mi sa sono tutti i ore ci paradi, nessuno fa vita. Ma non è che sui ponti, proprio tutto tace da qua fino a Oltre Oristano. Neanche Cagliari sento, boh. Vabbè. Hanno di meglio da fare evidentemente tutti. Alle prossime, Cla, stammi bene. Ma ci aggiorniamo dopo a 5.25, se non io voglio stare qua. Ciao. Giulio. CQ10. Non c'è nessuno, Natali. Cosa chiami? E non ci sei tu, Gianfra. Buonasera. Ma io non ero qua. Lo faccio era anche Claudio, ma anche lui si è tuffato e quindi è andato a fare qualcosa di meglio. Una cappa. io ho voluto chiamare per se c'era qualcuno. Va bene, riprendo a fare quello che stavo facendo. Ci sentiamo, Gianfra, ciao Ale Cruz. Aspetta Natale che andiamo a volare qualcuno. Quando non lo vuoi, quando lo vuoi. Stai dicendo Natale, ho perduto il passaggio. Ho detto che me ne ritorno a fare quello che stavo facendo. Al limite rimango in ascolto, dai. Ok, io stavo mettendo un po' in ordine. E quindi rimaniamo in ascolto. O se vuoi parliamo col muro, se ci risponde. Curiecci, anzi parlo, ciao Roberto, ero da parecchio senza sentirti, un po' effetto citofonico mi sembra, da quest'ultimo passaggio è andato un po' meglio, segnale qua a casa mia 9+30, sempre la solita, avanti, e allora ciao Claudio, dove siete di bello? Ma lo stesso, segnale buono, 9+30, la radio, diciamo, non ti dico 5 per non dirti, è 4 e mezzo. Io sto uscendo solo con i watt della radio, capito, l'antenna è sempre quella, è la 7/8. A proposito Claudio, già l'avevi letta la mia mail, o non mi ricordo se ti avevo mandato anche un WhatsApp, mi avevano mandato l'iscrizione al Whisky Mike, capito, di Marsala. Esatto, mi hanno mandato la tessera numero 2136, rilasciata il 25/9/2022, Radio Club CB Whisky Mike Marsala, e poi c'è il mio nominativo 165 Whisky Mike 150, e il mio nome è socio dell'International X Group Whisky Mike, firmata dalla presidente Orlando. Mi hanno mandato quella e alcune altre cosettine, sì, anche a me. E adesso mi sembra una modulazione perfetta, limpida e chiara, questo passaggio che hai fatto, Roberto. Esatto, adesso va decisamente meglio, adesso è bella, limpida e chiara la voce, super 5, segnale è ottimo, arrivate molto bene. Ho capito, sì. Io in questi giorni sono a casa perché non sto andando a lavorare, quindi più o meno la mattina un pochettino, qualche chiacchierata sto facendo. L'altra mattina c'era Giulio, ho sentito anche Claudio Sparviero, è entrato un attimino, poi c'era Luca Flipper, qualche mattina ho parlato con Natalino, e di pomeriggio un po' meno, c'è rispetto diciamo al periodo estivo un po' meno gente adesso, forse ancora il clima caldo e magari voglia uscire, magari a usare meno la radio, io perché sono costretto a stare a casa, capito, e quindi ci sono, a volte accendo mattina e sera. A te Mike e Claudio. Sì, tutto bene, io lo stesso ho avuto qualche piccolo problemino di salute, ma ho risolto, capito, ma niente di grave, di una cosa che però si doveva risolvere chirurgicamente, quindi l'ho fatto in via privata perché sennò mi toccava aspettare le calende greche col sistema di prenotazione ASL, col CUP eccetera, non avevo voglia di aspettare, allora ho pagato, ho chiamato, mi hanno preso subito, ho fatto tutto e diciamo che sono a buon punto. Sino al 13 sono a casa in malattia e poi rientrerò a lavorare. Ma Roberto, alle prossime, non ti preoccupare, ci risentiamo una prossima volta. Ricambio il tutto, Claudio, ce la risentiamo alle prossime. Hola, attenzione al canale 10. Cosa vuoi dal canale 10? Gianni Merlo, eh? Non lo sai che non si fanno cognome. Chi se ne frega, oggi faccio il pirata. Così è. E allora, Natalia, che ti invento? Io sono sopra lui. Vabbè, dai, lasciamo per. Sorvoliamo! Giovanotti. Ciao Carlo, ben entrato, buonasera. Oh signore, ma cosa vuoi che dica già? Cata, quando è ieri c'avevo lo zimino qua e ho fatto quelle melanzane a caramella. Una bomba era. Sì, oggi ho mangiato pollo con i peperoni. Buono, buono. Avanti, Carlo. Che chiediamo a Gianni, come va Gianni? Ma ti hanno chiamato, ancora sei in lista d'attesa? Va, avanti Carlo, che era un po' di tempo che non ti sentivo. Ho detto se ti hanno chiamato a fare l'intervento oppure sei in lista d'attesa. Ho fatto già altro ricovero. Ok, quindi ti hanno fatto un po' di analisi, però l'intervento niente ancora. No, ancora no, mi dovrebbero chiamare verso il 25. Insomma, finché non lo fai non risolvi quei dolori. Vabbè dai, stringi un po' i denti, già ci vuole poco, dai, e quindi speriamo che si liberi qualche posto prima anche, così risolvi. Io lo stesso avevo un piccolo problemino rispetto al tuo, una fesseria, e sto recuperando, dai, ma la mia era cosa di poco conto. Sì, diciamo che loro hanno parlato il 25 perché il 25 viene l'equipe da fuori, quelli che operano con robot. Ho capito, e quindi diciamo è già tutto programmato allora. Sì, lo chiamano subito, lo chiamano, come c'è l'equipe pronta, la sala operatoria libera, lo chiamano immediatamente. Non è come quando l'ha fatta all'ospedale, lui che non so quanto tempo è stato aspettando l'intervento, poveraccio, con quei dolori, mamma mia. Natali, forse mi sono dimenticato degli altri, ma questi mi sa che sono peggiori, da gridare proprio, la notte da mettermi a grida, da non poter resistere, anche prendendo Lucky non ti va di nulla più perché oramai se so è fatto il fisico. E allora, Lucky è un palliativo, poi ti rovina lo stomaco, guarda, quello che io non ne potevo prendere neanche perché prendo... come si chiama la... tachipirina. La... no, usa tachipirina, no. La cardiaspirina. La cardiaspirina. E non ne posso prendere di antidolorifici, capito? Quando mi hanno fatto l'intervento a me, me l'hanno fatta togliere per 4 giorni prima dell'intervento la cardiaspirina, capito? È pericolosa. Ma io devo togliere la metformina invece, 2 giorni prima, 48 ore prima. Vedi, quella lì a me mi aveva fatto male, mi aveva fatto. E allora avevo ripreso a fare l'insulina, però me ne ha dato un'altra che è una bomba quella pastiglia, ne prendo una sola al giorno e buh. E poi la notte faccio quell'insulina lenta. A me mi hanno detto 48 ore, prima bisogna smettere la metformina. Sì, vuol dire che è contraria. Nonostante 4 giorni prima la cardiaspirina hanno chiesto l'ordine al mio medico, no? Me l'hanno tolta per 4 giorni prima dell'intervento. In tutte e due le volte mi l'hanno invato perché cazzo, quella che è pericolosa. Mi hanno fatto anche il coso, come si chiama, l'eco al cuore, è tutto a posto, ho detto che è tutto a posto, hanno trovato solo un po' più alta la pressione, era 150, ma mi ha detto che chi va all'ospedale, secondo lei chi va all'ospedale è agitato e quindi non ce l'aveva a fare affidamento. Sì, infatti, l'ecocardio Doppler si hanno fatto così, e lì ci sono tutti i parametri del cuore, è sempre meglio farlo. E se ti va tum tum tum tum tum. Chi su? A me, se non facevo quello, manco mi visitava il cardiologo. Ma detto fai l'ecocardio Doppler e poi già ti visito, se no manco mi visitava. Avanti Carlo. Ma di gastroprotettore non ve ne danno con tutte queste medicine? Io sì, io lo prendo, io ogni volta prima di prendere l'occhio lo prendo. E ho omeoprazolo, pantoprazolo, quelle cose lì, preso la mattina ti dà la protezione per tutto il giorno, se prendi più di un farmaco al giorno è sempre meglio prenderlo, se no ti bucano lo stomaco tutte queste cose. Io adesso lo stesso stavo prendendo Daflon, Movicol, mi hanno prescritto roba di 4-5 farmaci e mi hanno fatto prendere questo pantoprazolo pure. Adesso meno male che già finisco e ho risolto il problema e quindi dovrei smettere anche di prendere tutta questa robaccia. Ma discreto, cosa c'avevi? Un problema al tubo di scappamento. Ah, cos'era, smarmittato? Esatto, e quindi era una cosa esterna, però quindi asportata e quindi un po' di cicatrice e quindi sto usando diversi trattamenti, però diciamo da ieri sto meglio decisamente, perché praticamente quando vai in bagno sentivi gli ululati del lupo. Ci credo, un minatalino l'ha provato, l'emorroide. E questa roba dice che viene fuori in base all'alimentazione sbagliata oppure al tipo di lavoro che fa, e dice molte volte dice i pavimentisti che stanno molto piegati eccetera, dice che sforzano tutte quelle parti là, quindi spesso poi con l'avanti di, diciamo andare avanti dell'età, dice vanno incontro a queste problematiche. A me invece lo specialista mi ha detto che potrebbe essere anche la sella della bicicletta, capito? Perché gli ho detto che non sono, ha visto che non sono sovrappeso, gli ho spiegato che non è che abuso di, faccio che ne so, mangiate, bevute, qualche bicchiere ogni tanto, ma capito, non è, poi, per il resto è tutto normale. Quindi lui ha detto che può essere un problema meccanico proprio dovuto a qualcosa di duro, e può essere anche il sellino della bicicletta. Ma c'era il sellino, sicuro che c'era, non è che ha fatto come Fantuzzi, no? E questo adesso quando guarisco già me lo prendo di quelli morbidi. Scherzo, per drammatizzare, non è che non te la prendo. Oh, vabbè, comunque niente, ho fatto il più, adesso diciamo c'è il resto. Adesso bisogna vedere, perché loro adesso si riuniscono, controllano tutte le analisi, comunque le analisi metto che sono buone. Tu pensa a quelli che adesso ricevi, sono sempre 97, 95, 102 al massimo. E anda bene. Oh signor, va bene, va bene. Adesso me la devo misurare due volte alla settimana, mi hanno tolto tutte le strisce, due scatole solo me ne hanno dato, ed io già me la misuro una buccia ogni tanto. A me non mi bastano lo stesso, devo dire al dottore quando sono andato a fare la visita, non mi bastano sino a fine mese, anche perché ce ne sono molte che sono difettose, tu vai a mettere e ti scrivo l'errore eccetera eccetera, e ne devi mettere un'altra e ce la devi buttare quello. E così fa da me, e cosa vuoi ti dica? 50 solo me ne hanno dato, da 125, capito? Questa bastarda della dottoressa, ma già vi lo dico, se mi dice che sono poche le misurazioni, dico, ah, me l'ha detto l'infermiera, a me due volte alla settimana, e due volte alla settimana me la misuro, a orari diversi, se mi dice che è poi io non ne compro più, perché me le dovevo comprare io le strisce, e costano un sacco di soldi, io siccome non c'ho soldi, non ne compro. Natale, adesso le ho comprate anche una volta perché non mi sono bastate, ma adesso mi regolo, meno male, con quello che mangio mi regolo sino a quando mi danno quelle nuove, e ce la faccio a spendere 23 euro per un coso di spicce da 50. Quelle da 50 costano sulle 27, 23 o 27, adesso non mi ricordo. Quelle invece da 100 costano più del doppio. Già lo so, le mie non costano molto già. fatto sono 17, mi sembra, così è concesso. Sì. Da 25. Me ne hanno dato due scatole da 25 solo, e buco. E per quello io me la misuro due volte la settimana solo. Una volta mi era lì. E buh, se dice che sono poche le misurazioni, gli dico, la mando a quel paese. Dico, peggio per lui, è lei che me ne ha dato due scatole solo, non ne compro più io, Strice. Ma io misuro la glicemia più volte al giorno, prima e dopo la colazione, prima e dopo il pranzo, prima e dopo la cena e prima di andare a letto. Misuro tutte queste volte qua, perché poi le devo riportare sul foglio che loro mi hanno dato da scrivere le glicemie, no? Ehi, anche io ho il diario delle glicemie. Solo che adesso me le misuro due volte alla settimana, una volta al giorno. Io prima le misuravo come le misuri tu, solo che adesso mi hanno dato due scatole solo e misuro solo due volte, poi me l'ha detto l'infermiera, due volte alla settimana, non c'è bisogno che stia sempre bucandosi. Vabbè, ma per essere sicuri, tu quando ti fai l'insulina devi sapere quanto te ne devi fare, perlomeno per me è così, io devo sapere quanto insulina farmi, se per dire se ero a 95 insulina me ne faccio 10-12, se ero a 200 me ne faccio 30, capito, quello è il problema, avanti cara. Insomma, tanti acciacchi, e vabbè, del resto le medicine a volte ci salvano situazioni difficili, dai, basta andare avanti e sdrammatizzare, no? Già, così bisogna fare. Caro Gianni, ho visto una bellissima radio, la DAC Mark, giusto per cambiare discorso, tutta bella cromata, capito, uno spettacolo di radio. Sì, la conosco, Mark 5, c'era Claudio. Lo so, me l'ha mandata lui la foto, un bestione. Bella è. Quelle lì sono, secondo me, i baracchini più belli che ci sono in giro. Il Galaxy e il Mark 5. Il Mark 5 sembra un amplificatore, è un bestione, è un ibrido quello lì, c'ha lo stadio finale, mi pare a valvole, e a transistor e resta a valvole. E già la sto vedendo in foto. Bella grande, tutta cromata, tutta quella di Claudio è perfetta. Ehi, pensa che quella lì me la voleva dare a me, la persona che l'ha data a lui, ma non l'avevo presa perché nel viaggio si era stortato il perno praticamente che fa girare i canali, del commutatore dei canali. E me la voleva vendere e ho detto dammi l'altra perché ne aveva due, una nuova e io sono maniaco delle cose nuove, non mi piacciono le cose che devi metterci le mani. E niente, non l'ho presa per quello. Ho visto. Bella radio. E io lo stesso in questo periodo avevo un po' staccato con la radio perché appunto qualche problemino eccetera. E adesso devo staccare tutto perché qua stanno andando avanti con i lavori e fanno il cappotto anche dove ho l'antenna e quindi mi devo tenere pronto a sganciare il filo, tirarlo su perché faccio prima così e diciamo poi mi passano un pezzo di corrugato già chiesto, me lo mettono già predisposto e appena terminano posso rinfilare dentro, quindi giusto dalla macchina prossimamente ci potremo sentire. Infatti sto ripristinando la radio in macchina adesso come rientro al lavoro, capito, e quindi da casa sarà difficile che mi sentirete almeno per una ventina di giorni. Ehi, tu senti abbattuto come voce, ma non stai molto bene. Aspetta, c'è una radio per un potenziometro, mamma mia, come sto. 5 euro l'ho pagato il potenziometro, ma l'ho cambiato Fabrizio, la radio nuova nuova, c'era solo quello a sostituire. 600 dollari la sto vendendo, se avete soldi, 600 dollari. Ciao Claudio, mi hai sentito? No, a me non interessa, oramai in radio quelle che ottengo e basta, tanto gente ce ne sente poca, ho acceso 50 volte, poi 50 volte, specie in questo periodo che io non mi posso alzare dal letto, mi avrebbe fatto compagnia e invece non c'è mai nessuno. Vabbè, pazienza, vogliamo l'attenda, manco ci me la baghetta e poi ci vuole, era un anno e mezzo dentro l'armadio, ciao cavolo, ciao, anche non sta lì, era un anno e mezzo dentro l'armadio, oggi adesso la tolgo e la metto a fianco alla linea Yeis, perché ho dato il Galaxy e quindi avevo questo spazio e l'ho messo lì, e stavo ascoltando con quella, solo che non ho collegato il microfono, quindi vi sto rispondendo con questa, ma stavo ascoltando con quello, almeno caricano i condensatori, carica tutto. Sì, Carlo, quella è, penso che sia una delle tante, una forse delle più grandi in assoluto, come Malachini Vintage, che come lunghezza è quanto il Galaxy, ma come altezza ce ne vogliono due dei Galaxy, uno sopra l'altro. Va bene, proseguite, dai, rimango i cuori ricchi, sì, ok, sono andato a salutarvi, baci e abbracci a tutti, ciao ciao, avanti caro. Ciao Claudio, sì, già, stavamo parlando prima con Gianni della tua radio, gli stavo dicendo appunto che l'ho vista in foto, è bellissima quella radio, anche perché con quel colore così, diciamo, grandi del genere, non ne avevo ancora visto io. Solitamente sono scure o hanno solo i pomelli cromati, capito? O solo il frontale, però quella è tutta bella cromata, ho visto. Sembra un grosso amplificatore. No, quello è completo perché c'ha il rosmetro incorporato, c'ha gli stessi strumenti di uno strumento del ZG. C'ha il rosmetro col calibrato, c'ha l'RF Power, e poi c'è, assieme all'RF Power c'è due scale dove ti segna anche l'assorbimento della valvola in trasmissione, c'è il FAT come praticamente l'HF, cioè quando tu vai in banda laterale per non fare andare forte lo smitter ti diminuisce la velocità dello smitter, capito? Questo è 260 canali però, non ha l'FM, c'è M, USB, c'è tutto, roba nuova, mi sono tutta lucidata a provare, ecco le mani di panace irassicabile, conta gli anni che c'ha e sono sempre belle le cromature, anche i pomelli sono cromati in una maniera tale che sono rimasti sempre così. Va bene, sì, come ha detto Gianni, quando l'ho presa c'era un potenziometro storto, l'ho ordinato, me l'ho fatto sostituire, basta, non mi ha mai creato problemi. Era un anno e mezzo ferma, l'ho presa, l'ho accesa e funziona perfettamente. Dopo che collego il microfono se lo trovo, anche se quello sarà dentro l'armadio. Vabbè. Vi saluto, ciao a tutti, buon divertimento, buon QSO e tricche e ballacche. No, io già anch'io sto accendendo poco, anzi, le radio veramente sono sempre accese, ma sto entrando poco che non aiutano. Vi saluto. Ciao, riprendi chi c'è, anche Natalino, riprendi tu poco Fabu. Ho chiamato, non c'era nessuno. Se di esempio tutti nel corso, nessuno entra. Vabbè. Perché noi ci alziamo tardi, buonasera. Ciao T. Adesso ti chiamo, aspetta un attimo. Prendi il telefono, ti che ti chiamo. Ce l'ho. Buonasera a tutti. Ciao vecchietta, ui. Grazie già, ciao. Seratino. Ciao Tino. Buonasera, sono svegliato adesso. Continuate, vado un attimo in bagno. Vai pure Gianni. E niente, io una mezz'oretta fa ero in radio e stavo parlando con Roberto e Claudio Muros ed erano nel QTH di Muros, stavano provando una radio e siamo rimasti circa un quarto d'ora a chiacchierare, a fare qualche controllo, un quarto d'ora 20 minuti, poi loro avevano da fare, hanno chiuso e ci siamo salutati, per cui avevo lasciato acceso, poi ho sentito Natalino e Gianni e sono entrato, capito, però qualcuno stasera si è sentito. Non c'era nessuno, e poi qualcuno è già entrato, anch'io ero in ascolto. Non so se ci hai sentito, sarà forse una mezz'ora fa, prima di parlare con voi, capito? Ho chiacchierato con loro e niente, sono rimasti un pochettino. Prima c'era qualcun altro, lo stesso metteva portante, fischiava, ho detto avanti, avanti, non mi ha risposto mai. Quindi più o meno poi io ho acceso dalle 4, va bene che stavo facendo altro, capito? Quindi ogni tanto mi spostavo, per cui non so se qualcun altro ha bussato. Va bene, ho visto Natali, bene mera, hai piazzato tutto, bene mera. Così anche tu puoi spaziare da una all'altra, dai, almeno per l'ascolto hai diverse possibilità, mentre parli con una puoi ascoltare con altre cose pure. E infatti, quel ricevettorino mi è molto utile, almeno ascolto. Purtroppo altro non ne ho qua, c'è solo questo qui che sto parlando e boh. Capito. Qua c'è gente cattiva e mi hanno preso di mira, e quindi è meglio sempre essere tranquilli. Lo so, pensa che su al quinto piano ci abita una persona, no? E mi ha detto, ma lo sa che l'altro giorno ero su internet e stavo ascoltando un podcast su ANSA Notizie, no? Sono quelle notizie che danno in diretta. E dice, sentiva la mia voce sul suo computer, però praticamente stavo trasmettendo col lineare attaccato. Quando mi ha detto così, ho detto, immagino che sia quello, troppi watt, capito, e disturbava, quindi aggiungava tutto, ho staccato tutto velocemente. Adesso sto uscendo solo con i watt della radio, e qua a casa lascio così, perché sennò sono scocciature, capito? La linea. Mi ha messo qualcosa io, anche se uscivo con 5 watt, anzi con 4 mi pare di sia, chissà parecchio disturbavo, però la colpa non era mia e purtroppo se la prendevano con me ugualmente. Vabbè, lasciamo perdere, che è meglio. Infatti, io ho preso, staccato tutto, quello lo utilizzerò magari in auto, capito, ogni tanto, senza esagerare, perché sennò ti butta giù la batteria pure, ti do solo un watt e così magari esci con 20-25 watt. No, anche con 5 poi c'è tranquillo, l'importante è che non lo usi quando c'è il motore spento. Almeno così lo sfrutto, perché da qua l'ho tolto, perché penso così che non crei nessun disturbo così come la usavo prima, capito? Però questa cosa l'ha riscontrata qualche, sarà un paio di settimane fa, no? E stavo trasmettendo, facendo un DX ed ero a manetta, ero con 100 watt, capito? E probabilmente con l'antenna che ho magari irradia talmente tanta potenza, capito, che quello era col computer acceso e ha riconosciuto la mia voce, quello che dicevo in radio pure. Sì, ma eri in AM sicuramente. Sì, mi sa che ero o in AM o forse ero in FM addirittura. No, né in FM né anche in banda laterale non disturbi, disturbi solo in AM. Probabilmente allora era magari o andata alla radio in AM, quindi io stavo trasmettendo, forse può darsi pure che come prima stavo facendo l'X, magari mi sono dimenticato di staccarlo, capito? Quindi era a bomba, capito? Magari ero in AM come stai dicendo tu, io non mi sono accorto, in effetti poi ho toccato il lineare, era caldo perché era da un bel po' attaccato e mi ero dimenticato e magari io stavo parlando e per quello che ho causato disturbo. Chi ha causato? Nella cassa del computer è normale entrare, io pure senza niente ero in macchina e sono entrato nella macchina cioè nel computer di una signora, mi già lo sa Gianni. E poi non ti ho detto che cosa stavo facendo, Natali. arrivi. No, te già, questa qua è stata la serrata, minigonna, si vede tutte le mutande, ce le ho viola, e quello l'ha sentita. E le mutande a quella signora, lì. Quando sono entrato, perché dovevo entrare lì a fare dei documenti, Cata me l'ha detto. Carlo. Sì, dimmi, stavo ascoltando i rumori sotto perché sentivo qualcuno, ma è roba di propagazione. Lo sento anch'io. Perché avevo abbassato lo squelce, quindi ho detto chi c'è, pensavo fosse gente locale, ma è roba, segnali da lontano. Hai capito cosa ha fatto Natalino, non l'hai sentito? Sì, già l'ho sentito Natalino. Stavo parlando con me, no, io ero in macchina mia, lui era con la macchina sua, ed era su al monte dove c'è un ufficio dove doveva andare lui. Questa qua stanno la serranda, e Natalino ha detto tutto in diretta, capito? Ha fatto la serranda, come si è inchinata, e poi mi ha detto, oh, Natalino sta andando la serranda. Oh, ecco lì l'ha sentito, quando è andato ha detto, scusi, ma lei come si permette? Oh, Natalino, Natalino. Natalino, Natalino, anche qui per me, e lui ci mira giù, bamba in là. Hai ragione Natali, però quella ha sentito tutto. Tu se gli serviva qualcosa bastava dirlo e gliela davo, tanto già era poco buona. Da bravo Natali. Io già sono bravo, già faccio bravo, io sono bravo, è proprio perché sono bravo. Mi ne capende la risa pure a me. Occhio che non si sia accorto dietro con Mattarelli. È qua che sta scrivendo, figurati, già mi ha sentito. Infatti mi ha detto, ma cosa l'hai fatto? Quando eri sposato con me? No, gli ho detto, tanto tempo fa, infatti è vero. Siamo vedere di un bel tempo, sembra ieri ma è un bel tempo fa. Io allora siamo al 127, siamo al 127 con l'antenna al lato, avevo la Sigma di X, quella bianca. E minimo sono passati 35 anni come minimo se ci avevi la 127. È un bel tempo, tanto Natalino lo conosco da poco, dai. Io un anno che lo conosco a Natalino, minimo sono 40 zicani, so, due di. E allora ci siamo 50, siamo vecchietti della frequenza, guardate che minimo ci sarò 50 anni io. Fai il conto, dal 76 ci sono io in frequenza. Io più o meno così lo stesso. Cosa ti stavo dicendo Carlo? Con Natalino noi, dopo che lasciavamo le fidanzate, ci trovavamo tutti quanti a Sacro Cuore e poi andavamo al pub, poi ci fermavamo lì a parlare, tutte le sere, capito? Allora, cavolo, quando andavamo al karaoke c'era Principe Azzurro, c'era Claudio anche, ce ne andavamo lì in Piazza Lessegni anche, ci bevevamo qualcosa e ci ascoltavamo il karaoke. Forse ci siamo sovramodulati già. No, no, non stavo parlando. Carlo, dimmi già. È copiato il karaoke, lo facevamo nel bar dove siamo andati a bere insieme, però era di signor Enrico allora, non era di questo giorno, di questo adesso che ce l'ha. Ho capito, quanti anni fa sarà almeno quello? Quanti anni sarà da lì che andavamo da signor Enrico? Non me lo ricordo. Sempre a Claudio glielo chiediamo a vedere se ce lo ricordo. E ancora CB, non era manco radioamatore coso, Principe Azzurro, Stefano, figurati, già so pochi anni. Sicuramente saranno passati più di 30 Natali, buoni buoni, se no 40. Lo sai cos'è? Che quando parli delle cose sembra parlando di ieri, sono passati 30, 40 anni, non te ne rendi conto. Esatto, esatto, è proprio così succede. Ma noi ogni sera, quando mollevamo le fidanzate, ci trovavamo vicino a casa di Gianni, che stava al Sacro Cuore, allora era fidanzato, lui non abitava dove abita adesso, abitava al Sacro Cuore lui. E ci trovavamo, gli amici ce ne andavamo in giro. Uno di lui si è giubriato perché mi diceva, cos'è dagli amici tuoi devi andare, questa fretta che c'è di andartene? In chi vicino uno, i femmini, buzzinusi. Così ricordo a Sacro Cuore, ci andavo quando ero ragazzino, ma avrò avuto 12 anni, ragazzino, e mi ci portava mia zia, perché era nella corale che c'era lì a Sacro Cuore, c'era il maestro Ghigo Garau, mi ricordo, c'era sempre gente fuori quella piazza, adesso non so com'è l'ambiente lì. No, l'ambiente adesso c'è molto giro di droga, roba del genere, c'è tossica, ma carità. Quando c'è un ambiente bello, tu pensa che tutti quelli dei palazzi dintorni si conoscevano tutti, perché d'estate ci sono i muri intracchiti lì e si andavano tutti giù nelle panchine, si portavano l'acqua, tutti si conoscevano, capito, uno con l'altro si conoscevano, stavano fino a mezzanotte, perché a casa noi eravamo sotto tetto, ti puoi immaginare, col muro intracchiti sotto tetto era un caso da morire, una fornace. Lo immagino, sì, prima era tranquilla quella zona, io mi ricordo da ragazzino lì c'è andavo a giocare in bicicletta, eccetera, scendevo da via Baldetta, capito, ed estate ero sempre a casa di mia nonna, me ne andavo per un mese, due mesi con mio cugino, che allora anche lui abitava a via Baldetta, però era l'inizio, era tutto via Baldetta lì, adesso è via Mores dove aveva la casa mio zio, capito, prima era un'unica via, lì era via Baldetta sino a sud. Sì, all'inizio abitava. Cosa ci volevo dire? Lo conosci a Antonello Carosello, Carlo? Se basicavi da quelle parti dovresti conoscerlo. Già me lo ricordo, sì. Quello lì mi ha tirato una tira alla ficcata alla schiena, che ero vicino alla scuola, no, alle elementari lì, che ero una tipa, stavo facendo gli affari miei, mi arriva questa tira la ficcata a pallini ed era lui. E allora ce n'erano dei personaggi, adesso è un degrado, però era limitata la cosa, c'erano sì quei due personaggi che magari erano un po' turbolenti, capito, e stavi un po' alla larga e tutto sommato. Adesso, se come mi sta dicendo Gianni, lì è una zona un po' degradata con droga e cose del genere, per carità. Sì, adesso non è tranquilla come era prima, no? Adesso è tutto cambiato. Vedo che ti ricordi che c'era Ghigo Garau lì, già sono passati un anno già, Pagana. Da Don Biga tanti anni lì, parroco, poi è andato via lui, mi ricordo che era morto, non mi ricordo, era arrivato da 80, quello che era Bonorva prima. Sì, dottor Biga, sì, parroco da lui, è morto, è sempre stato lui il parroco lì, poi Gandemociu è venuto Don Tanca. Hai capito, Carlo? L'hanno sottolineato dalla chiesa, dottor Piga. Ma è già, perché vi siete un po' sovramodulati con Natalino prima e quindi avevo capito la metà delle cose. Sì, dottor Piga, praticamente, se tu vai nella chiesa del Sacro Cuore c'è il presepe, quello tutto in bronzo, non so se tu l'hai mai visto, sotto il presepe c'è praticamente seppellito dottor Piga, io l'ho visto quando l'hanno chiuso. Io già la conosco bene quella chiesa, io scendevo anche sotto, ero sempre lì da ragazzino, capito, d'estate quando andavo, ogni sera che mia zia andava alla corale, eccetera, stavo lì ad ascoltare questo organo enorme a canne, c'era, mi ricordo del presepio tipo in rame, era di bronzo, un colore così era, già me lo ricordo, sì. E sotto hanno seppellito dottor Piga. Facciamo entrare poche persone, ma siccome ero stato sempre scout, chirichetto, eccetera, eccetera, mi hanno fatto entrare a me, capito? Diciamo eri di casa lì allora. Sì, poi mio padre era dell'Azione Cattolica, quindi la mia famiglia era conosciuta. Tu pensa che se tu sei sceso dalla grotta, se tu scendendo sulla destra guardi, c'è il nome della mia famiglia, perché hanno contribuito per le spese per comprare le campane della chiesa, per costruirle, eccetera. E c'è tipo una lapide con il nome della famiglia. E mi ricordo che ce n'è più di una di lapide scendendo giù lì alla grotta. Sì, sì, è tappezzato. E c'è anche il nome di mio padre. Quello lì l'ha fatta lui la chiesa proprio, con l'aiuto di tutti, di tutta la comunità che c'era lì, diciamo. C'è chi l'ha criticato molto perché aveva le manie grandiose, aveva fatto l'organo più grande della Sardegna, non lo so io. Comunque era molto frequentata quella chiesa, io mi ricordo che era sempre piena, dal sabato sera, la domenica, sempre uscivano le messe, era sempre col pienone, ed è grande quella chiesa effettivamente, è bella grande. Io ho visto anche Spada quando facevo i disegni, lo sai, ero dentro la chiesa quando lui disegnava. Spada, quei disegni che ci sono, quegli affreschi che ha fatto su nel soffitto della chiesa, con lui li ha fatti tutti Spada. E allora quando veniva in bacca sputando tutti i capricci. Non pensavo fossero di qualche altro pittore, diciamo, non Spada. No, professor Spada gli ha fatti quegli affreschi lì. E dottor Pigagruccio ne rovino burrendi. Se no, se non era embriaco non li disegnavano. È vero, poi aveva posato una donna nuda, molta gente aveva avuto da dire perché era in una chiesa, aveva posato per pitturare Eva e Marte. Vabbè, vuol dire che anche il nudo serviva allora, capito? Certo, in chiesa, posare in chiesa nuda era una bella cosa. È una cosa artistica, vabbè, c'è chi l'ha vista male, chi ha criticato per queste cose qua. Ma comunque io ho sempre fatto parte di quella chiesa, ho cominciato a fare il chierichetto, figurati quella chiesa lì, poi ho fatto lo scout, poi diciamo ho fatto anche il coso, come si chiama, ma non mi viene adesso. E vabbè, comunque ho fatto tante cose, chierichetto, scout, nella sede cattolica, ho cantato, ho fatto, cioè molte cose ho fatto lì. Allora diciamo era un'attrattiva quella comunità del Sacro Cuore, la chiesa eccetera, tutta la gente lì del monte, insomma, chi era di via Baldetta, ma non solo, via Pascoli, tutta quella zona lì, le zone di via D'Annunzio, tutti là scendevano in chiesa, e la gente, diciamo, la maggior parte della gente andava tutta al Sacro Cuore. Sì, sì, sì, c'era Nino Garau che suonava, adesso è morto, suonava l'organo, era bravissimo. Me lo ricordo, aveva i baffoni, i capelli lunghi sempre, in capottone aveva un loden sempre lungo, che allora si usavano quei loden d'inverno, era un freddo, e lui era sempre là. Sì, sì, sì, è vero, era lui. Cioè, io ce l'ho impresso come se fosse oggi, conoscevo tutti quelli del coro, tutti quanti, c'era uno che non conoscevo, sicuramente conoscevo anche tua zia, ma nel coro dei grandi era quello di piccoli. Nel coro dei grandi era mia zia. Antonio Vivaldi. Esatto, e andavano anche fuori a cantare, andavano fuori in Sardegna, qualche sagra, festa religiosa, però poi mi ricordo che erano andati ad Assisi a cantare da altre parti. Sì, sì, lo so, perché io avevo un grande amico che cantava col coro della Vivaldi, andava sempre fuori, però dottor Piga dava le punizioni, se non frequentavi assiduamente non ti faceva andare alle gite. Allora era così, si rispettavano le regole, e quindi se non frequentavi non ti mandavano da nessuna parte. E io ci sono nato in quella zona, capito? Io solo vi abitavo. È presente l'angolo del Sacro Cuore di fronte alla scuola numero 6, il primo portone abitavo io. Cavolo, lì già la conosco bene quella zona, già ho capito, salendo in su dopo la scuola, sulla destra. Sì, sì, praticamente c'è la scuola, all'entrata della scuola di fronte c'è il mio palazzo. io facevo scendendo le scale alla scuola, capito, quando era alle medie. All'elementare lo stesso San Giovanni in Mosca era appena più lontano, facevo i giardini ed ero arrivato, ma non diciamo, mi passa nei giardini, non passare in mezzo alla strada. Io passavo dentro i giardini e poi attraversavo, c'erano i vigili che ti facevano attraversare nei passaggi pedonali e quindi non correvo nessun rischio. Poi se mi fossi iscritto alle industriali avrei fatto anche l'industriale, invece ho scelto le professionali e non le ho fatte le industriali, quindi sono andato da un'altra parte. Ho capito, altri tempi, dai. Io lo stesso, le scuole non le ho fatte tutte a Sassari perché le avevo fatte a Bonorva, io ho fatto a Bonorva sia le elementari che le medie, poi invece alle superiori avevo fatto i primi due anni a Macomer, che ero ancora a Bonorva, però come scuole superiori.